Buon pomeriggio ad Andrea Scanzi, giornalista, conduttore televisivo, opinionista, scrittore, ma oggi in veste di autore ed interprete teatrale qui ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito. Allora, Andrea, siamo qui a parlare di Fuoco sulla collina, lo spettacolo dedicato ad Ivan Graziani che porterà in scena assieme al figlio del cantautore Filippo Graziani. Sarete in scena venerdì 19 novembre al Teatro Celebrazioni qui a Bologna, ma questo è un progetto che, correggimi se sbaglio, nasce molto tempo fa. Se non sbaglio, la prima edizione di questo spettacolo risale al 2014. Cosa vi ha spinto a mettere in piedi questo progetto e come si è evoluto negli anni? Intanto hai detto giusto, lo facciamo da 7-8 anni e sono molto contento di farlo domani a Bologna, dove non l'abbiamo mai messo in scena. Tra l'altro mi dicono che ci saranno più di 400 persone, ci sono ancora biglietti, quindi affrettatevi, così facciamo il sold out. Cosa ci ha spinto? Ci ha spinto, almeno parlo a titolo personale, ma so che parlo anche a nome di Filippo in realtà, ci ha spinto il grande amore per un artista straordinario. È ovvio che Filippo ha anche l'implicazione del figlio e Filippo interpreta il papà con una bravura, con una fedeltà, con un talento smisurati. Nel mio caso c'è il grande amore per un artista che io ho sempre trovato geniale, pionieristico, rivoluzionario, avanti nel tempo, capace negli anni 70 e 80 di fare delle cose straordinarie, di anticipare il rock unito al cantautorato, e al tempo stesso un artista che secondo me è troppo poco raccontato e un po' sottovalutato. E quindi in Fuochi sulla collina io lo racconto cercando di dimostrare, spero, quanto fosse e sia ancora bravo, e Filippo lo interpreta in maniera magistrale. Negli anni è cambiato poco perché abbiamo un po' cambiato la scaletta cercando di recuperare anche dei brani meno noti, per esempio Scappo di casa o Fango. Però l'ossatura è quella, l'ossatura è il talento di Ivan Graziani che io cerco di raccontare, che Filippo interpreta, lo ripeto per l'ennesima volta perché ci credo, in maniera magistrale. Come hai detto, nei suoi anni di produzione musicale, Graziani ha dovuto scontrarsi con l'immagine del cantautore classico, quindi è riuscito poi a rivoluzionare questa etichetta, insomma. Il tuo amore per il cantautorato è noto, infatti hai fatto già alcuni spettacoli come quello su Gaber e De André dedicati al mondo del cantautorato. Per Graziani, com'è nata questa conoscenza, anche la conoscenza con il figlio Filippo? L'amore per il cantautorato è vero, mi conosci, hai ragione, al punto tale che mi ci sono laureato ormai 21 anni fa nel 2000, mi laureai nella prima generazione dei cantautori e molti di questi li ho o conosciuti o poi portati a teatro, De André, Gaber, Guccini. Dopodomani racconterò in una prima nazionale Franco Battiato. Io ho un grande amore per i cantautori e in Italia siamo straordinari. Ivan Graziani in casa mia c'è sempre stato. Io ho la fortuna di avere dei genitori che capiscono molto di musica, mi hanno cresciuto con una grandissima qualità sonora e Ivan Graziani, per me bambino e ragazzo, era uno dei pochi cantautori che era anche allegro. Il cantautore, soprattutto per un ragazzo, è un po' triste, la musica si somiglia un po', io non riuscivo a capire tutte le sfaccettature. Ivan Graziani mi arrivava addosso, mi arrivava l'allegria, la simpatia, anche la sensualità, perché è un uomo che si capisce che ama la vita, ama le donne. Ed era divertente, lo potevi anche ballare, canticchiare, basta pensare a Pigro, a Monna Lisa, c'erano questi riff di chitarra meravigliosi. E quindi ho cominciato a scriverne, ne scrivevo nella stampa quando lavoravo alla stampa, poi al Mucchio Selvaggio prima ancora, al Fatto Quotidiano adesso. Uno di questi articoli è arrivato alla famiglia di Ivan, soprattutto alla moglie, Anna Bischi, che mi ha voluto conoscere, ne è nato un bel rapporto di amicizia con tutta la famiglia, non solo con Filippo. È chiaro che poi con Filippo è scattata anche la scintilla artistica, perché lui suona da Dio, io già raccontavo a teatro i cantautori e mi sono permesso di dirgli prima di un'edizione del Festival Pigro a Teramo, perché non facciamo la stessa cosa che faccio con Gaber e De André anche con tuo papà, perché guarda che raccontare tuo padre è straordinario, non basta cantare. Bisogna anche far capire quanto sia stato geniale. Io insisto, nella metà degli anni 70 fare delle canzoni come Motocross o I Lupi significava essere eretico, perché significava applicare il rock, che era la vera natura di Ivan, al cantautorato, e molti critici non l'hanno capito, ancora oggi non lo capiscono. Quindi serviva un grande coraggio e un grande talento. Così è nato Fuochi sulla collina, che forse, non ve lo nascondo, è lo spettacolo in apparenza meno commerciale. Perché è ovvio che se io racconto De André o Gaber o Battiato, se faccio uno spettacolo politico o se racconti Pink Floyd, il pubblico viene probabilmente ancora di più perché sono nomi più grossi o perché c'è l'elemento televisivo nel mio caso. Ivan Graziani qualcuno può dire, però dai, non è stato il più grande. Ecco, io sfido tutti a venire domani sera al Teatro Celebrazioni di Bologna, perché si renderanno conto che Ivan Graziani va messo assolutamente accanto ai più grandi della musica italiana. Avete definito questo spettacolo un divertimento condiviso col pubblico, un momento di celebrazione più che un coccodrillo per ricordarlo. C'è un aneddoto che ti è particolarmente caro riguardo la storia di Graziani? Ce ne sono tanti, io nello spettacolo domani sera ne racconterò molti, qualcuno lo racconterà anche Filippo, ce n'è uno che non anticipo, che è delizioso, di Filippo, è un aneddoto che riguarda anche Barbara D'Urso, non dico altro ma fa molto ridere. A me divertono molto alcune cose che mi ha raccontato Anna Graziani, ci sono Anna Bischi che è la mamma di Filippo. Ci sono degli aneddoti che mi rattristano, perché è chiaro che parliamo di un artista molto allegro, molto divertente, molto gioviale, felice, anche danzereccio in alcuni casi, che però se n'è andato troppo presto, ha neanche 52 anni. Quindi c'è un elemento malinconico che magari tengo per me. Durante gli spettacoli racconto degli aneddoti anche molto teneri, ne dico due velocemente. Il primo, non tutti lo sanno, ma le canzoni di Ivan nascevano sempre attraverso un ping pong con Anna. Cioè scrivevano insieme la sera dopo aver cenato, magari vedevano, che ne so, una ragazza che andava a scuola guida perché doveva prendere la patente, e Ivan cominciava a dire: come si potrebbe chiamare questa ragazza? E lei diceva: Paolina. Ok, chiamiamola Paolina, ma cosa potrebbe fare? Si potrebbe innamorare di quello che gli insegna a scuola guida. Così nasceva una canzone come Paolina, che è deliziosa, che a un certo punto Filippo canta anche nello spettacolo. Un altro aneddoto più diretto, più chiaro, è questo. Ivan Graziani alla fine degli anni 70 si trova dentro uno studio di registrazione non distante da Bologna, a Roncobilaccio, quindi chiunque faccia la 1 ci passa per forza. A Roncobilaccio c'era un grande studio di registrazione, non c'erano ancora ovviamente i cellulari. Alle 2 di notte lui, Ivan, telefona a casa di Anna, che era nella sua casa di Nuova Feltria, dove tuttora abita Anna, e gli dice: guarda, ho scritto questa canzone, però non so quanto sia bella, l'ho appena iniziata, c'è questo riff iniziale, la canzone comincia così, ti va di sentirla? E Anna, che stava dormendo, alle 2 di notte: beh, Ivan, se proprio devi fammela sentire. E lui parte al telefono cantando per la prima volta nella sua vita Firenze canzone triste. E io credo che quell'aneddoto lì sia meraviglioso, perché intanto è bello da immaginare, e poi perché mi fa sorridere come Ivan avesse appena scritto una delle sue canzoni più note, una delle canzoni più belle della storia della musica italiana, e non fosse sicuro che era bella. E quindi me lo immagino che la canticchia un po' timido, dicendole: ma sei sicura? Vado avanti, la scrivo, è bella, la registriamo. Di questi aneddoti ce ne sono miliardi, cioè Ivan Graziani è uno che ha detto di no a Battisti, ha detto di no alla PFM, ha detto di no a Mina, a Mogol, e lo diceva di no quando ancora non era famoso. È un artista veramente sfaccettato, anche spigoloso in certe cose, ma molto molto affascinante. Gli voglio davvero bene a Ivan Graziani. Ripeto, non è lo spettacolo più noto che io ho, ma è uno degli spettacoli dentro il quale mi batte più il cuore, perché Ivan Graziani ha bisogno di grande attenzione, di grande affetto e di grande memoria, e se non lo conosci te ne innamori, perché non c'è nessuno come Ivan Graziani. Era un alieno, e come tutti gli alieni non sempre hanno successo, ma il loro talento è smisurato. Un grande affetto e grandi aneddoti, che allora non vediamo l'ora di poter vedere e ascoltare domani, venerdì 19, al Teatro Celebrazioni a Bologna. I biglietti sono disponibili su Ticket One e al teatro, e allora non possiamo far altro che augurare in bocca al lupo per questo spettacolo. Con grande piacere vi aspetto, e tra l'altro domani sera ci sarà, per chi fosse interessato, anche il firmacopie del mio ultimo libro, che è uscito proprio oggi, quindi Bologna, la data di domani, sarà anche la prima volta in cui farò anche il firmacopie del nuovo libro, che non riguarda Ivan Graziani, ma che comunque ci sarà finito lo spettacolo, quindi un motivo in più per abbracciare i tanti che verranno domani sera. Grazie mille Andrea, e ti ringrazio per essere stato qui ai nostri microfoni, e ancora in bocca al lupo per domani. Viva il lupo e grazie a voi.